Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nel corso di uno degli ultimi consigli europei, il sottosegretario degli affari europei Sandro Gozi ha annunciato l'intenzione dell'Italia di aderire nel 2016 al brevetto unitario, grazie al quale sarà più semplice ottenere un brevetto valido in tutti i paesi dell'UE che hanno aderito appunto al brevetto unitario. In pratica non sarà più necessario che il brevetto venga approvato da tutti gli uffici brevettuali di questi paesi e tradotti nelle rispettive lingue, ma basterà registrarlo una volta sola in una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco. Tutto bene? Beh, a giudicare dal dibattito accesissimo che si è scatenato dopo le parole di Gozi, l'adesione dell'Italia al brevetto unitario avrà pro, ma senz'altro avrà anche dei contro. Ne parliamo con Antonio Mario Pizzoli, partner di SIB, la società italiana brevetti. Buonasera Pizzoli. Buonasera a tutti voi, buonasera agli radioascoltatori. Allora, parliamo intanto di una, sostanzialmente di una estensione del cosiddetto brevetto europeo, che diventa brevetto unitario. Che cosa cambia? Diciamo che molto non cambia, quindi il brevetto europeo che già conosciamo e che verrà comunque concesso in futuro non cambia, quindi si depositerà una domanda di brevetto europeo in francese, tedesco e inglese, lo si discuterà con l'ufficio brevetti e alla fine si otterrà il brevetto in una di queste tre lingue con la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Quindi fino alla concessione del brevetto europeo nulla non cambia. Cambia nulla. Ecco, a questo punto, per far valere questo brevetto europeo, bisognava prima tradurlo in tutti i singoli paesi dove lo si voleva, diciamo, applicare. Invece c'è questo brevetto unitario che permetterà di saltare questo passaggio. Esattamente, consentirà di avere la protezione in un gruppo di questi paesi, perché chiaramente saranno certo, solo alcuni dei 38 paesi certo, del brevetto europeo, e per questi qui praticamente non sarà più necessario fare una traduzione, perché comunque brevetto già una di queste tre lingue, e quindi sarà valido per tutti i paesi che aderiscono a questo brevetto unitario. Benedetto brevetto unitario. Ecco, quali sono i vantaggi principali e per chi ci sono? Allora, i vantaggi principali sono chiaramente per i titolari dei brevetti europei, soprattutto quelli che attualmente coprono più di 4-5 paesi, perché chiaramente avranno una riduzione dei costi per quello che riguarda la protezione nei paesi del brevetto unitario. Cioè, insomma, per chi registra brevetti e vuole registrarli in tanti paesi, in linea di massima qui ci può essere una semplificazione in termini di costi e di procedure. Certamente. Invece ci sono dei problemi però, che nascono soprattutto quando bisogna difendere il proprio brevetto o difendersi da brevetti ostili. Esattamente, perché il brevetto unitario, ma anche quello europeo, verranno in futuro trattati da un tribunale unificato dei brevetti, che sarà un tribunale unico per tutta l'Europa. Avrà dei costi e delle procedure complesse, e sarà più costoso difendersi o difendere i propri brevetti con questo tribunale. Per di più, il problema sarà per quelle aziende che magari non brevettano o brevettano, ma vengono attaccate da un brevetto di terzi. E quindi chiaramente io, per difendermi dai brevetti altrui, dovrò tradurre il brevetto che prima veniva tradotto da loro in italiano. Ok, quindi il tedesco non dovrà tradurre in tedesco dei brevetti italiani, mentre l'italiano si troverà a tradurre magari in italiano dei brevetti tedeschi. C'è una sostanziale asimmetria per chi, come noi, non ha avuto questa fortuna di essere una delle lingue ufficiali dei brevetti. E a questo proposito c'è una considerazione da fare. L'Italia è una pietra angolare di questo sistema. Se non aderisce l'Italia al sistema di brevettazione unica, serve a pochissimo, perché si registrano sempre in Italia brevetti europei, siamo uno dei mercati più grandi. Contemporaneamente non è già operativo questo meccanismo e non lo sarà fino all'istituzione di questo tribunale di cui lei mi parlava, che avverrà fra più di un anno, almeno nel 2017. Allora, ha senso aderire così rapidamente? Aderire rapidamente direi di no, perché comunque c'è ancora del tempo per poter discutere prima di aderire, perché una volta che l'Italia ha aderito sarà uno dei 25 paesi che attualmente diciamo, hanno prospettato l'intenzione di aderire, e quindi sarà un singolo voto. Mentre, data l'importanza dell'Italia per quello che riguarda anche e soprattutto le industrie straniere, è fondamentale che ci sia una, come dire, una trattativa diplomatica per ottenere delle condizioni più favorevoli, per fare in modo che quei contro vengano in qualche modo limitati. E lei dice che questo è il momento buono per trattare. Senta, si parla della possibilità di istituire un tribunale locale anche qui a Milano, oltre a quelli che si prevedono, Parigi, Londra e Monaco, siamo sempre lì. Ci sarebbe un effettivo vantaggio? Ci sarebbe un vantaggio per le imprese italiane, soprattutto se la lingua di procedura fosse solo l'italiano, ma se viene scelto l'italiano, per esempio, e anche l'inglese, chiaramente le cause poi saranno fatte in inglese, quindi diciamo comunque in una lingua neutra e non nella lingua di chi si deve difendere. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Antonio Mario Pizzoli. Grazie a voi, buona serata. Appuntamento a domani. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.